E beh, questo, ma tutta la mia generazione ha equivocato. Senta, il suo peggior difetto qual è, Montanelli? Quello di non riconoscermene nessuno, forse. Senta, ma qual è l'uomo politico che preferisce? Oggi? Sì. Posso dire che non ne vedo nessuno che incarni il mio senta, ideale. Ma di Craxi cosa pensa lei? Craxi crede che sia un uomo politico efficiente, che ha fatto tutto quello che si poteva fare in queste condizioni. Non accetto la protervia di Craxi. Craxi è un protervo. E di De Mita cosa pensa? Penso che sia un uomo molto abile, con una certa grinta a cui manca la comunicativa. E di Natta? Lo ritengo il più mediocre, uso un eufemismo dei segretari del Partito Comunista, proprio il Senta. Segno di una decadenza di quel partito. Senta, Montanelli, un'ultima domanda. Longanesi, parlando di lei, un giorno disse che lei capiva le cose con 10 mesi di anticipo rispetto a tutti gli altri. Ecco, tra 10 mesi cosa vede in Italia? Queste erano le cose di Longanesi. Ma in realtà io non riesco a vedere fra 10 giorni. 800 24 0024 349 238 6666. Faremo una serie di una volta alla settimana di faccia a faccia della storia, perché in questa colonna sonora che ci sommerge di attualità bruciante, forse prendere anche una distanza una volta alla settimana può essere utile. Un grande giornalista, no? Montanelli, sì. dell'85. Ma soprattutto il personaggio, l'intervista era divertentissima. No, dico il personaggio. Sì, è fantastico. Poi era Montanelli era furbissimo nel non attribuirsi mai difetti, no? Infatti quando dice il mio peggior difetto è non attribuirmene nessuno, però c'è tutta la parte sul fascismo e sulla contemporaneità che è molto bella. C'è una cosa, tu Pietrangelo? Un bellissimo cortocircuito ho notato nell'intervista. Quando tu gli chiedevi chi è il nuovo Montanelli, lui ha fatto un identikit. Non ha fatto nomi, ma ha fatto un identikit. Tu l'hai trovato il nome? Io l'ho individuato. Ah sì? Si chiama Marco? Si chiama Marco, di cognome fa Travaglio, perché sicuramente Montanelli pensava a lui, tanto è vero che c'è una celebre incursione in TV di Montanelli quando esplode la polemica tra, se te la ricorderai Mario, sì, tra Vittorio Feltri e Santoro su, come no, mi ricordo e lì benissimo. Interviene Montanelli in diretta e dice sì, Travaglio ha ragione. Ma il cortocircuito è quando tu gli chiedi chi è il nuovo Scalfari e lui dice Giampaolo Panza. E allora guardiamo un po' la situazione di oggi, è veramente un testacoda fantastico, perché Giampaolo Panza è la firma di Libero. Mentre invece Marco Travaglio è il protagonista del Fatto naturalmente, Quotidiano. Naturalmente Panza è Panza, a prescindere. Bene. Mix 24. Questa canzone del lunedì? Il veloce volo, Anthony e Franco Battiato insieme fecero un meraviglioso concerto a Verona e questa canzone così bella serve perché aiuta in questo nostro lunedì inizio. Bene, però sento... Qualcosa? Cos'è questo? La quota rosa che fa rima anche con qualcosa. In Turchia, lo sapete, il premier ha chiuso Twitter E allora cos'è successo? Che il Galatasaray, la squadra turca più blasonata, è sceso in campo questa domenica non solo per vincere, ma anche come ambasciatore della libertà. Ieri sulle maglie aveva il logo di Twitter. E allora io ho una domanda. Ma Erdogan chiuderà anche il Galatasaray? Ah, questa è la domanda della nostra quota rosa, Sara Tardelli. E intanto che cosa bolle in pentola? E ora cari terrazzati con lo champagne, che cosa fate? No, perché voglio dire, Hollande è al tappeto, dopo questo turno di amministrative. Beh, non è stato felice questo turno. Marine ha trionfato, ne abbiamo parlato tante volte qui, vedrete cosa succederà alle europee a maggio. Ma mi chiedo, ma in Italia c'è un erede, diciamo, una parvenza di Front National? Non lo so, per me no, vi dico subito, così anticipo la mia, diciamo, visione del problema. Non guarda, so se tu penso... Giovanni lo vedi. No, non lo vedo e penso che avrebbe forse potuto esserlo Fini se non avesse, come dire, ceduto alle sirene della mondanità e avesse avuto il coraggio di continuare una traversata del deserto, cioè restare lì. E tu, Pietrangelo? Beh, l'unico incontro ufficiale Marine Le Pen in Italia l'ha fatto con Matteo Salvini. Beh, non mi dirà l'unico che rapporto, lui l'erede. Però l'unico rapporto vero, concreto, che Marine Le Pen ha stabilito in Italia è con Salvini, sconfessando peraltro e tutta la galassia di destra, tant'è vero che vedo che Alemanno continuamente rivendica i successi di Marine Le Pen, solo che Marine Le Pen non se ne accorge di questa rivendicazione, no. Cioè questo fatto. Un giorno D'Alema fece una bella battuta, devo dire sbagliata, però era bella la battuta, perché pare Fini faceva riferimento a Chirac, erano al Costanzo Show, mi pare, qualcosa del genere, e D'Alema disse: sì, tu fai continuamente il riferimento a Chirac, ma Chirac non si accorge di te. Salamini non era male, non male. Ah, di palo in frasca, anzi di filo in filo, camminando come su di un filo. L'argomento è lo stesso, l'atmosfera è francese, ma applicata ai canoni italiani non può che essere da commedia, perché ancora una volta, ahimè, io sono sprovvisto della dose quotidiana di Balzac, perché sarà in vacanza. Non c'è Balzac. Adesso, oggi non c'è. E però le notizie arrivano e nella Berlusconeide che succede? Succede che insomma la saga dei figli, e quello si vuole candidare, quell'altra no, Barbara vorrebbe, Marina non vuole, Pier Silvio vuole continuare a fare palestra, e si candida Francesca Pascale, la fidanzata. Vabbè, dai, vabbè, su, dai. Andiamo avanti. Come andiamo avanti? Dai, no, ma qua sono tragedie, bolle, c'è un partito che è esploso, sono disperati. Fitto si vuole candidare perché c'ha molti voti. Fitto. E allora sai che non lo fanno avvicinare, non lo fanno parlare. Lo so, non ci fanno più parlare. Vabbè, dai, non abbiamo informazioni dirette. Come non andiamo abbiamo? Avanti. Avanti con le bolle. Dai, Ivan. Ivan il matto. Spegnere i motori. Spegnere i motori. Silenzio assoluto. Motori spenti. Che succede, Jones? Ogni tanto i comandanti russi, per vedere se sono seguiti, virano all'improvviso. È il cosiddetto Ivan il matto. Questo. È fantastico, Caccia Ottobre Rosso. Tra l'altro ho incontrato uno dei mio amico, un traduttore, che dice sempre: io i libri di Tom Clancy non li volevo mai tradurre perché erano complicatissimi, con tutti i dettagli tecnici dei sommergibili, delle armi. Esatto. Eccetera. Perché Ivan il matto? Perché le tensioni tra la Russia e gli Stati Uniti sono note. Barack Obama sta arrivando in Europa, è un viaggio importantissimo. Un'Europa complicata. Trova un'Europa molto complicata, sappiamo tutti che sta cercando di stringere un fronte anti-Putin che abbia una sua solidità ed efficacia, però insomma non sarà semplice, l'energia pesa ancora qualcosa. Penso che ancora una volta la Merkel sarà un po' punto di equilibrio. Sì, è l'arbitro ovviamente, la Germania guardia a Oriente, come sanno bene i nostri ascoltatori. Segnalo che il comandante generale della NATO in Europa ha detto che insomma Vladimir sta ammassando un po' di truppe al confine con l'Ucraina, però tutto bene. Non vabbè, vi vedremo. Senti, Pietrangelo, tu c'hai un amico che lavora di domenica che... Come no, il comandante Sottile, Giuseppe Sottile. Buongiorno. Buongiorno. Ma che lavoro fa la domenica lei? No, volevo precisare quanto detto dal compagno Buttafuoco. Io non sono comandante, sono cavaliere, cavaliere del lavoro altrui. Ah, bene. Ancora il titolo, Sottile, grande. Sì, cavaliere del lavoro altrui. E domenica, domenica che lavoro ha fatto? Domenica io vado passeggiando. Una volta quando ero ragazzino mi portava papà a fare la visita ai canili municipali per una sorta di, come dire, di buonismo, no, verso gli animali. Ora invece vedo i canili domenicali che sono sulle due nostre principali TV, sia Mediaset che Rai, dove praticamente si spranano tra familiari. E allora ieri si è raggiunto proprio un apice tra la D'Urso e la Vernier, perché c'erano tutti gli eredi di Claudio Villa che si sbranavano tra loro, una parte dalla D'Urso, un'altra parte dalla Vernier. Però dopo tanta gita tra i canili familiari, poi ho avuto la possibilità, e questa veramente devo dire una grande fortuna, di vedere la Vernier che intervistava Veltroni. E allora eravamo oltre il rapimento, oltre la devozione, eravamo proprio all'estasi. Sembrava Santa Teresa d'Avila del libro Le Vabbè, ha fatto un bel film su Berlinguer, normale, no? Sì, però bisognava vedere lo sguardo penetrante con quegli occhi verdi che veramente solcavano l'infinito. E il povero Veltroni che si doveva destreggiare tra tanta spietatezza nelle domande. Grazie, speriamo di averla ancora, perché come osservatore della domenica è interessante. Buon lavoro, le bolle. Vabbè, allora siamo entrati proprio nel tema, cioè che ridere fa bene alla salute. E la commedia fa bene alle cellule staminali e aumenta la flessibilità mentale. Che ne so, se sentite una battuta così, secondo me fa bene. Io e mia moglie siamo stati felici per 20 anni. Poi ci siamo incontrati. Allora tu capisci che tutto questo, tutta questa ironia fa bene alla giornata, introduce a un nuovo modo di vedere le cose. Lo racconta un dottore che si chiama Scott Weems dell'Università del Maryland in un libro che è intitolato La scienza di quando noi ridiamo e perché. Peccato che non sia stato ancora tradotto in Italia, ma aspettiamo fiduciosi. Salamini! Il Salamino di oggi è non tanto secessionista, neppure autonomista. Insomma, c'è un interessante articolo di Ilvo Diamanti su Repubblica di oggi, dove racconta come l'indipendenza del Veneto non è uno scherzo, nel senso che ha fatto un sondaggio, hanno capito che comunque la maggior parte dei veneti accarezza questa idea, però il dettaglio salaminesco che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è nel fatto che gli osservatori stranieri lo hanno valutato con un'attenzione che invece in Italia non abbiamo voluto dare riguardo a questo fatto, e cioè che il Veneto, insomma, la sua storia la vuole rivendicare, quindi volevo dedicare loro questo passaggio da cuore impavido che tanto piace a chi sotto sotto accarezza l'idea di staccarsi. Siete sicuri che non sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi per avere l'occasione, solo un'altra occasione, di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà! Mix 24. Allora, vabbè, grande Mozart. Perché? Perché c'è un tema. È un tema di narrazione, e quale migliore di questo, no? Elvira Madigan. Un tema di narrazione. La parola tipo vendola. Tipo vendola. No, senti che bello. Allora, l'uso dei messaggini sta uccidendo il punto esclamativo, e non solo quello, secondo me anche l'uso della lingua, ma fermiamoci al punto esclamativo, perché c'è uno splendido articolo su The Atlantic in proposito, e si ricorda di quando Victor Hugo mandò un telegramma al suo editore per sapere se avesse letto I Miserabili, e il telegramma era di un solo segno, un punto interrogativo. La risposta fu altrettanto sintetica, un punto esclamativo. Cioè l'editore ha risposto con un, con un punto, con un punto esclamativo, contento, con un punto esclamativo. E oggi siamo ridotti invece con queste faccine sorridenti, non sorridenti e così via. E in realtà però, attenzione, i punti esclamativi e no, sono importanti. Per esempio, vi leggo questa cosa qua, senti Buttafuoco, e non darmi del romantico. Non è passato giorno che non t'amassi, non è passata notte che non ti stringessi tra le braccia. Non ho preso una tazza di tè senza maledire la gloria e l'ambizione che mi tengono lontano dall'anima della mia vita. Tuttavia, nelle tue lettere del 23, del 26 ventoso mi davi del voi. Voi, tu stessa. Ah, cattiva! Come hai potuto scrivere questa lettera? Com'era fredda! Te la immagini senza punti esclamativi? Era una lettera per Giuseppina di Napoleone Bonaparte, un punto esclamativo vivente. Hai capito? Qui oramai è la gara fra loro due, che è citazione letterale. Posso dire una cosa? Farò un'altra trasmissione. Ho ricevuto un messaggio dal Veneto. Da Napoleone. Dal Veneto. Serenissima e cosa bellissima. 800 24 00 24, 349 238 6666, l'SMS. Professor Simonelli, buongiorno. È stato un pochino anticipato dalla nostra telefonata, ma che aveva un altro sapore. Lei che cosa ci dice della televisione di ieri sera? Dov'era il canone? Ma guardi, ieri sera, intanto diciamo ieri pomeriggio, sì, perché ieri pomeriggio, sempre nell'ambito di questi 60 anni che celebriamo ogni tanto, Rai 3 e Rai Sport hanno dedicato tutto il pomeriggio alla Milano-Sanremo. E adesso vi riporto un po' coi piedi per terra. Sì, grazie, ce n'è bisogno. Con le ruote per terra. Ecco. Sì. Perché insomma, la Milano-Sanremo, oltre ad essere una grande festa popolare, è anche nella storia della televisione italiana. La prima Milano-Sanremo è andata in onda nel 1956. Ma soprattutto nel 66 è stato un laboratorio di sperimentazione della telecamera mobile, che all'epoca era una rarità. Certo. Quindi questa edizione storica del 66, che suscitò sorprese e perplessità, ma un bravo giornalista, Ormezzano, che seguiva il ciclismo con passione, fece un grande titolo su Tutto Sport: Mamma TV, dacci di più. Che aveva colto aveva capito che la tecnologia è linguaggio. La tecnologia è allora un linguaggio. Mi sembra che ieri si parla licet sempre. Qualche innovazione tecnologica si cerca di fare anche per esempio film. Per esempio, professore, per esempio, stringa telecamera a bordo dell'ammiraglia che fa un po' reality, per esempio le slide che segnalano che fanno un po' Renzi, sì, che fanno, però insomma piccole cose, però insomma mi sembra che la Rai si stia dando da fare. Beh, per bene. Rinnovare anche sì. Questo sport, che è l'unico che le è rimasto in toto. Bene, poi bene. Ieri sera aggiungiamo una cosa, abbiamo 10 secondi, il canone era anche là dove non è stato comprato quell'orribile TV americana che invece Rete 4 ci trasmetterà per le prossime domeniche. Va bene, ci quindi sentiamo nei prossimi giorni. Grazie professore. Sara Tardelli ha intervistato Francesco Gaspari, che è il produttore del film Presto farà giorno, una produzione indipendente che è riuscita ad arrivare nelle sale. Francesco Gasparri, coproduttore del film Presto farà giorno, per la regia di Giuseppe Ferlito. Mi racconta di cosa parla questo film? Questo film parla di solitudine, parla di giovani, parla della difficoltà delle persone di affrontare i problemi della vita quotidiana, ma anche di tanta speranza, di cui il titolo Presto farà giorno, perché alla fine la luce del giorno deve arrivare, arriva. E sono due ragazzi che hanno, diciamo, una vicenda personale abbastanza drammatica, no? La protagonista, adolescente, comincia a fare uso di droga così per evadere, perché non sa cos'è, mentre il ragazzo, appunto, attraverso la droga cerca di farsi un nome, cerca di sentirsi importante, cerca di svoltare, appunto, di fare soldi velocemente. E di trovare una sua identità. E di trovare una sua identità, un suo ruolo, ma soprattutto di sentirsi importante. Il film è un film indipendente che però è riuscito a trovare una distribuzione nazionale. Come avete fatto? Diciamo con tantissima determinazione, senza farci scoraggiare, ascoltando i consigli delle persone che appunto ci volevano dare una mano ma che non sempre ci riusciva. Noi alla fine, insomma, con tanta determinazione abbiamo... Chi avete convinto? Abbiamo convinto innanzitutto Rai Cinema, poi siamo riusciti a convincere anche le istituzioni, quindi il Ministero dei Beni Culturali, la Regione Lazio e anche due sponsor privati che hanno creduto nel progetto, non senza difficoltà ovviamente, e giorno dopo giorno, ci abbiamo messo un anno, alla fine siamo riusciti ad arrivare alla realizzazione di questo film, che è un ottimo film. In sala l'altro giorno, no, dopo la prima, c'è stato un grande e caloroso applauso da parte del pubblico, perché è un film che tocca quelle corde che le persone poi restano dentro. Non si capisce in quale città è ambientato Presto farà giorno, perché? È stata una scelta, è stato voluto. Il film come ambientazione, come anche il look dei personaggi, è un film che potrebbe essere ambientato in qualsiasi città europea o italiana, e il motivo è perché noi crediamo e vogliamo che questa sia una storia universale. È una storia di tutti i giovani, quindi potrebbe essere ambientato da New York come a Londra, come a Parigi, come a Berlino. Questo film, come abbiamo detto, tratta un tema molto attuale. Infatti sono appena usciti i dati del CNR, il Centro di Ricerche di Pisa, che denunciano proprio l'aumento dell'uso di droghe, dalla cannabis alle anfetamine tra i giovanissimi, purtroppo. Ma che messaggio volete far arrivare con questo film? Sì, è proprio questo il punto. In una parte del film la protagonista, Mari, dirà proprio al medico che l'ha presa in cura che lei non si sente una tossica, perché farsi un tiro è normale, che qualsiasi persona si fa un tiro oggigiorno. Ed è proprio questo il punto, che i ragazzi, le persone ormai percepiscono la droga come una cosa normale, e non è così. Era il 24 marzo del 1944, quando 335 vittime tra civili e militari furono fucilati nell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Oggi, con la storia curata come sempre da Marina Milone, noi ripercorriamo le ore precedenti a quel giorno, dall'attacco di Via Rasella compiuto dai gruppi partigiani comandati da Giorgio Amendola fino alla rappresaglia tedesca, e poi ancora le polemiche suscitate dalla morte e la sepoltura di Erich Prip, che lo ricorderete, uno degli ufficiali nazisti che partecipò alla strage. In chiusura, Marina Milone intervista Monio Vadia.